E allora buonasera, buonasera a tutte e a tutti, nuova puntata di Entropia Massima, nuova puntata ma nuovo anno, e quindi questa sera inizieremo a presentare le diverse anime, le diverse componenti di questa puntata, di questa trasmissione che ormai è in onda da anni e che è composta da vari elementi che si alternano e si integrano. Quindi io passo subito la parola a Libera Scienza in Libero Stato. Ma no, comandante Jacopo, comincia te, per una volta facciamo il contrario, dai. Perché ho un po' di tosse, mi devo schiarire la voce, Lorenzo. Va bene, allora, buonasera a tutte e a tutti, ben trovati e ben trovate, fratelli e sorelle, compagni e compagni all'ascolto. Questo qui è la nostra voce, come al solito, da Talk Radio di Libera Scienza in Libero Stato, un pezzettino di uno dei frammenti di Entropia Massima, che comincia oggi le sue trasmissioni del 2024-2025, e quindi per quanto ci riguarda ricordiamo che le componenti di Entropia Massima, così di cosa diciamo oggi, anche se ci manca una componente che non chiameremo al telefono, c'è quindi noi, Libera Scienza e Libero Stato, io col comandante Jacopo. Buonasera a tutte e a tutti. Benissimo, poi ben risintonizzati. Ecco, e risintonizzate. Vabbè, plurale mai. Poi estrattivismo dei dati. Ed eccoci anche, buonasera da parte mia. Estrattivismo dei Davide. Davide. E poi approfondiamo che cosa diremo. Poi c'è antropologica, che oggi è assente causa malattia, ma qualcosa diremo. Sentiremo. No, perché il raffreddore è troppo elevato. Okay. E poi ultima, ma non postrema, Emergenza zero, che comincia anche questa trasmissione, ricomincia le sue attività. Quindi, caro comandante, cominciamo un po' noi a dire che cosa faremo, sempre tenendo presente che il fumo mentale, nonostante il titolo della trasmissione, è il nostro, cioè la fumosità è la nostra cifra di vita, e quindi intanto cominciamo. Abbiamo però già un programma minimo per le puntate che vi allieteranno. Sì, abbiamo un programma minimo, nel senso che per qualche mese abbiamo già organizzato le puntate di qualche mese, ci tiriamo avanti. Cioè, detta così, così sembra una cosa un po' sminuire, ma non è da sminuire, perché noi abbiamo lavorato in questi mesi, abbiamo preso contatti, abbiamo già capito come iniziare. Iniziamo con gli argomenti che stanno più a cuore adesso, sempre che stanno sulle pagine di tutti i quotidiani, i problemi che non è la guerra, dopo la guerra viene il riscaldamento climatico. E quindi riprendiamo questo argomento, questo filone di analisi sul riscaldamento climatico, perché ovviamente è un'emergenza che anzi sta andando pure... sta prendendo delle pieghe brutte a nostro avviso, perché la crisi, sia la crisi dell'energia, i rapporti internazionali, gli approvvigionamenti con la Cina si fanno sempre più difficili, e soprattutto una chiave insomma di lettura lo potete trovare analizzando anche quello che sta succedendo con il comparto dell'automotive elettrico, la Stellantis che è assolutamente in crisi, si prospettano licenziamenti più di 30.000 per sé operai che andranno in cassa integrazione, proprio perché scelte maloculate, scelte che sono state, che hanno, non hanno dato i loro frutti, quindi puntare sull'elettrico in maniera così diciamo assurda, in cui le infrastrutture mancano, gli approvvigionamenti elettrici non è, e soprattutto le materie prime per la costruzione di batterie, insomma, sono tutti problemi questi qui che ovviamente sono strettamente connessi appunto col problema del riscaldamento climatico gestito in maniera appunto che ha seguito più una logica del profitto, più una logica scientifica e di vera lotta e porre freno appunto alle emissioni di CO2 a livello atmosferico, e lo facciamo appunto, quindi lo dico come prima trasmissione, prima puntata, se la prossima, lunedì prossimo iniziamo io e te Lorenzo con un ospite è già stata qui. Sì, Lorenzo, il 21. Il 21, ricordo, il 21, lunedì 21 iniziamo noi con Libera Scienza. Già ti tocca. Il Libero Stato, e abbiamo un ospite, già stata qui, una professoressa dell'Università degli Studi di Torino, il Dipartimento di Fisica, Elisa Palazzi. Forse qualcuno la conosce, perché comunque è una figura ormai famosa, perché comunque la sua attività divulgativa rispetto a queste tematiche è assidua. Col sito Climalteranti era quel gruppo. Quello è un gruppo, partecipa molto a tantissimi convegni in giro per l'Italia, sta sempre in giro a cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica, collabora con la Rai nei programmi, penso, di Geo, il programma Geo si chiama così, e lei ovviamente è una fisica, si occupa di fisica, insegna fisica, modelli di fisica d'atmosfera per il cambiamento climatico. È una conoscenza che ho da sempre, perché abbiamo studiato insieme a Bologna, quindi sono più di 20 anni che lei fa questo tipo di mestiere. Lei l'avevamo intervistata l'altra volta proprio a proposito del fenomeno del negazionismo climatico, che in realtà è stato superato da questa serie di governi, in particolare dall'ultimo, che hanno un po' paradossalmente vanificato la necessità di parlare con i negazionisti, nel senso il negazionismo è diventato strutturale, è stato superato dal fatto che appunto la lotta, tra le varie lotte della destra al governo, cioè quella contro il Green Deal europeo cosiddetta, ma non capiscono niente perché manco leggono, ieri proprio ne parlavamo, neanche leggono le direttive europee, anche quelle che potrebbero essere positive, comunque così è una roba un po' dogmatica, e quindi non stanno oltre il negazionismo, dice a noi sì, c'è il riscaldamento globale, ce ne frega niente, adottiamo politiche e scelte anche a livello energetico che non tengano necessariamente conto della riduzione delle emissioni climalteranti, anzi se sono necessarie perché il progresso deve andare avanti, cioè il tutto sommato ha prevalso questa cosa qui, rendendo obsoleto, se vuoi, da un certo punto di vista anche il contrasto al negazionismo, perché loro si sono posti oltre, l'hanno ricompreso oltre, nel senso che lo affermano ma dicono non ce ne importa niente. Esatto, quindi, cioè, vero o non vero, fate voi, è una roba l'hanno ridotto una deriva scientifica, sono stati così. Poi comunque continueremo con gli altri ospiti, ci avremo di nuovo il nostro ospite periodico, non fisso ma periodico, sempre vicino di casa, che è Silos, Francesco Silos Labine, con cui siamo molto in contatto, anche lui è figura nota nel panorama, insomma, della divulgazione, perché anche lui, diciamo, che ha adotto un assetto multidisciplinare, insomma lui è un fisico, è venuto qui già, appunto, come dicevi tu, Lorenzo, diverse volte già, è un fisico che lavora al centro Enrico Fermi di via Panisperna qui a Roma, centro studi Enrico Fermi di via Panisperna, sì, questo lo inviteremo in occasione del fatto che lui, in tutto questo suo da farsi, ha scritto un libro a quattro mani, che vi posso annunciare il titolo, che si chiama Bussola per un mondo in tempesta, è stato scritto con Caravani, che è un professore di insegna cooperazione internazionale e sviluppo presso l'Università di Roma 3. E quindi ne parleremo presentandolo. Con lui abbiamo fatto delle trasmissioni variegate, nel senso l'ultima delle quali è stata quella, credo sia stata l'ultima, sulla Xylella, che insomma è stata ripresa parecchio, appunto, che rimetteva, dato una vicenda che aveva messo in crisi un pochino anche i vari posizionamenti di chi aveva seguito la vicenda, che prima era in un modo, poi insomma si è scoperto tutt'altro, è stata molto interessante quella puntata, e lui ci aiuta, no, ogni tanto a decifrare sia i temi che riguardano la ricerca in generale, perché lui tutto sommato c'ha un blog importante, è molto seguito anche per le riflessioni sul mondo della ricerca, quindi era arrivato qui proprio con quel ciclo che abbiamo fatto sul manifesto della libera scienza, e poi invece essendo appunto un vicino di casa, ci sta simpatico, ci aiuta a decifrare delle cose, continuiamo ad invitarlo, e c'è un nuovo ritorno, quindi mo per ora stiamo parlando soltanto di ritorni, poi introdurremo anche, forse con l'anno nuovo, tornerà Maria Elena, un'altra vicina di casa, perché abita a San Lorenzo, che avevamo intervistato, che si occupa di oceanografia da satellite, è responsabile di alcuni programmi di analisi di dati satellitari per le correnti oceaniche, se non sbaglio, all'ESA, che però sta a Frascati, insomma, al sincrotone, insomma, dove c'è l'INFN, c'è l'ENEA, centro di ricerca per l'ESA, e quindi tornerà volentieri a trovarci, a raccontarci a che punto stanno, e poi magari inviteremo pure qualcuno nuovo, mano a mano, no? L'appetito viene mangiando, viene parlando. Certo, ma questo non è tendo a... lo sottolineo, non è il fatto che noi rinvitiamo anche le stesse, non è solo una questione di nostra comodità, di rapporti, ma è una questione anche noi, ogni anno che invitiamo qualcuno lo invitiamo sulle ricerche e di parlarci dello stato attuale delle loro ricerche. Gli anni passano ormai, e te Lorenzo sono ormai 5 anni che facciamo questa trasmissione, quindi rivedere la ricerca scientifica va avanti, certe volte può andare avanti anche molto velocemente, soprattutto appunto temi che abbiamo detto, cose riavere un aggiornamento, perché poi noi lo facciamo sempre in maniera proiettata su delle questioni strettamente legate sia a come la scienza è interconnessa col potere, sia appunto a come possa la scienza dare diciamo soluzioni per cercare di risolvere i problemi generali che abbiamo detto, insomma, quindi da riscaldamento climatico ai terremoti a qualsiasi altro tipo di problema, e sia poi anche la ricerca di base, perché quella comunque è una ricerca di base, diamo spazio molto alla ricerca di base, quella che diciamo che lì per lì se uno sente cosa fa un ricercatore che fa scienza di base, dice sì, ma questa a che serve? Come per esempio i ricercatori della materia oscura, i ricercatori sulle onde gravitazionali, i ricercatori che studiano la relatività, oppure semplicemente proprio ricercatori di fisica teorica che studiano solo equazioni, e dice ma questo a che serve? Noi cerchiamo di far capire che tutto ciò comunque ha una forte sintonia con le scoperte scientifiche che diventano applicativi, che diventano poi pane di tutti i giorni per uso comune delle masse, insomma della stragrande maggioranza della gente, così come abbiamo ricordato che al CERN è stato scoperto, lo ricordiamo sempre perché è quello più paradigmatico, il web è stato scoperto dagli scienziati del CERN di Ginevra, che è questo grande acceleratore di particelle dove sono state fatte delle scoperte di fisica di particelle fondamentali, ultimo il bosone di Higgs che ha avuto una risonanza mondiale a livello di divulgazione, e la particella di Dio, ecco, per farla capire a chi ci sente. Interessante poi, ecco, anche ritornare a riflettere con i nostri ricercatori, anche quelli che rinviteremo, come dicevi tu, per capire, ecco, hai detto le onde gravitazionali, in realtà ci sono novità pure su quell'osservatorio che forse dovrebbero fare in Sardegna, che si stanno concorrendo vari paesi. Sulle onde gravitazionali, ecco, perché mi viene in mente adesso, ti interrompo un attimo, noi l'ultima abbiamo chiuso il ciclo di quest'estate con Ettore Majorana, l'abbiamo fatto, Ettore Majorana, nipote del più famoso Ettore, parlando proprio dello zio, del vecchio zio scomparso, parlando appunto della scomparsa. Vecchio zio scomparso. Lo dico così perché ha un, certo. Anche di familiare, no? Cioè, ormai abbiamo parlato tante volte. Ecco. per renderlo molto, molto diciamo fruibile, certo. Ecco, che non però comunque questo per dire che invece Ettore Majorana si occupa appunto è un professore alla Sapienza, un professore ordinario alla Sapienza, e si occupa proprio di onde gravitazionali. La prima volta che lo invitammo parlammo appunto di onde gravitazionali. Invitiamo pure quest'anno sicuramente, tra l'altro erano rimaste molte, abbiamo ospitato molta gente che aspirava o aveva vinto fondi del PNRR e avrebbe iniziato delle ricerche anche molto interessanti, e quindi vediamo pure a che punto stanno. L'altra cosa che dicevo è che è l'ultima, magari poi passiamo, è che è interessante pure ritornare, visto quello che ho detto prima sulle scelte politiche di questo governo molto che sterzano sempre più a destra su tutti i temi, no? Il decreto sicurezza e tutti quelli di cui la radio parla sempre, ma il riflesso di queste politiche sul mondo della scienza c'è sempre, perché molte cose ormai non so da che punto in poi è diventato ce lo dice la scienza, mo per riprendendo ancora il negazionismo climatico, il Messaggero è libero dall'uscita di un articolo sul cambiamento climatico degli ultimi 480 milioni di anni, annunciavano, diceva beh no, non è vero che stiamo riscaldando, siamo nel periodo più freddo della Terra, che è vero, ma non c'entra niente, e quindi è sempre ce lo dice la scienza. Quindi questa scienza di cui noi abbiamo valutato e ragionato tante volte sulla libertà o sull'asservimento ai poteri, in un contesto di potere così asfittico e che necessita assolutamente di giustificazioni per le sue scelte più assurde, dalla rinuncia praticamente o comunque dall'ostacolare le fonti, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, quindi non soltanto correggerne le storture, al ritorno al nucleare, a varie tematiche che varie tematiche che insomma sono molto complesse, cerca il plauso e il sostegno della comunità scientifica. L'abbiamo visto tante volte, ogni volta che il ministro, il curioso ministro dell'ambiente, parla dopo che si è bevuto una bottiglia di prosecco, almeno sembra così, il curioso ministro dell'ambiente invoca il sostegno della scienza. E quindi in questo contesto che fanno gli scienziati, come andranno i finanziamenti, come andrà la libertà della scienza in questo contesto? Ecco, questo è un altro tema, forse anche che richiederemo ai nostri ospiti, soprattutto quelli che lavorano su temi più scottanti, non chi fa la materia oscura sottoterra. Ben detto. Va bene. Quindi facciamo quindi breve pausa musicale con Sandro Gioie e il Mando. Quand les rumeurs de la guerre arrivèrent jusqu'au village, tout le monde savait, tout le monde sentait que le quotidien n'aurait plus jamais le même visage. Réunis sous l'arbre millénaire, les anciens contemplaient le lointain. Qu'adviendra-t-il de notre peuple? Qu'adviendra-t-il de notre forêt? Au village, le papier roi n'existait pas, mais la forêt, elle, la forêt, était encore là. Comme tous les enfants du village, c'est sous l'arbre millénaire qu'elle mando, mon ami Naki. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Le bruit de sa vie de la rivière, et chaque nuit dans ses songes, vagabondait l'ombre de sa mère. Un matin baigné de soleil, El Mando bénit le ciel et quitta le village. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Mais sur la route qui mène à Kinshasa, El Mando a vu les soldats, les enfants soldats. El Mando d'unité pour sa vie. À Kinshasa, de Khartoum à Kangaba, de Kisangani au faubourg de Gaza, de région en région, de nation en nation. Déguez-vous à Kinshasa, de Khartoum à la paix, tout ça, de Kisangani au faubourg de Gaza, de région en région, de nation en nation. L'univers réserve parfois de bien étranges destins. L'univers réserve parfois de bien étranges destins. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Mando, fils des étoiles et de la terre. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. El Mando, balana, tu vas bientôt la revoir. Bientôt la revoir. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte, tu vas bientôt la revoir. Ta maman est crainte, e allora buonasera di nuovo a tutte e a tutti, ritorniamo in voce, siamo a Entropia Massima su Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche online ondarossa.info. Ritorniamo. Prima puntata dopo l'estate, quindi siamo un po' emozionati. Emozionate dopo la ripresa da giugno, da luglio. E quindi si riprende e abbiamo sentito, ascoltato Libera Scienza in Libero Stato, che ci ha riraccontato quello che hanno fatto l'anno scorso e il futuro. E quindi adesso ripasso la parola a Estrattivismo dei Dati. Perfetto. Allora, il ciclo Estrattivismo dei Dati, insomma, anche quest'anno avrà lo stesso nome. E ormai da qualche anno questo nome, che forse all'inizio appariva un po' strano, no? Che noi abbiamo proposto per queste trasmissioni del ciclo tecnologico, oggi è invece diventato, insomma, abbastanza appannaggio comune, abbastanza scontato, no? Perché è il modello di sfruttamento che i tech giants, cioè le mega aziende che si occupano di tecnologia nel mondo, i big tech come vengono anche chiamati, usano proprio il modello estrattivista, che consiste nel attirare l'attenzione delle persone. La risorsa di interesse da estrarre è proprio l'attenzione delle persone, quindi monetizzare su questo. Ad ogni modo, al netto del nome, che comunque abbiamo tenuto perché ci pare ancora pertinente, l'obiettivo principale che ci prefiggiamo quest'anno è quello di sollevare riflessioni, dare spunti critici, dare un punto di vista antagonista rispetto a quella che è la narrazione mainstream, questa parola che poco prima di questa puntata abbiamo evocato in negativo, noi la utilizziamo comunque, la narrazione, insomma, dei sistemi di comunicazione più diffusi. Questa narrazione sulle tecnologie attuali chiaramente è una narrazione che non ci piace affatto, perché riteniamo che, insomma, il suo scopo sia quello di consolidare questo tipo di potere, questo tipo di interessi che ricadono in un'idea di mondo che sta nella testa di capitalisti americani, il cosiddetto capitalismo della sorveglianza. Ci sono anche in buona compagnia dei capitalisti cinesi che assecondano questo modo di produzione e, nonostante abbiano comunque guadagnato ormai un protagonismo assoluto nel campo, non sono ancora in grado di esprimere eventualmente un diverso paradigma. Quindi siamo pienamente calati in questa situazione. Noi racconteremo, come facciamo ogni anno, le perversioni di questo tipo di economia, che non fa alcun interesse delle persone e che invece è, diciamo, le persone sono in qualche modo utilizzate da questo sistema per essere degli ingranaggi di questa mega macchina, no? degli ingranaggi che non riescono a capire fino in fondo i meccanismi del sistema in cui sono calati. Capirlo del resto non è semplice, il potere tende a oscurare le componenti tecnologiche, no? Che ci sono dietro, che sottendono a questo funzionamento. E anche perché, in ogni caso, pure se così non fosse, pure se fosse tutto abbastanza chiaro e trasparente, si tratta di una materia molto complessa e forse anche poco attraente per i non addetti ai lavori. Noi proviamo invece a dire che è importante parlarne e noi proviamo ad aprire alcune finestre all'interno di questa mega macchina per dare insomma qualche spunto di riflessione in più. Del resto, la potenza di questo sistema di produzione odierno, che ovviamente va a trazione tecnologica, è enorme, questo non ci sfugge. Le economie che muove questo sistema sono quantitativamente, ma anche qualitativamente, direi le più ingenti del pianeta. E per cui, insomma, nonostante a noi piaccia sempre parlare di alternative, daremo ancora indicazioni su esistenza di alternative, sappiamo che lo facciamo in un orizzonte utopico. Un orizzonte utopico che peraltro è sempre più lontano. No, invece in genere, quando ci sono gli orizzonti utopici, uno dice: comunque dopo un po' mi avvicinerò, magari poco, ma mi avvicino. Invece in questo caso, più il tempo passa, più ti allontani da quell'orizzonte utopico e quindi ti rendi conto che queste alternative, diciamo, non hanno senz'altro il compito di rivaleggiare con il sistema, perché così non è possibile. No. Però parlare di queste alternative significa comunque creare una conflittualità, in qualche modo, una frizione. E quindi, insomma, noi indicheremo sempre la nostra assoluta preferenza per le tecnologie per l'autonomia, le tecnologie aperte, le tecnologie che non capitalizzano sull'estrattivismo. Però ecco, nel farlo non vogliamo avere un approccio pretesco, ma solo informativo. Accettiamo che ciò non comporterà alcun cambiamento radicale, ma è piuttosto un esercizio di resistenza. Ci piace considerarlo un esercizio di resistenza o anche un espediente per imparare a osservare e criticare cosa viene fatto dai padroni del mondo. Peraltro questa lettura che noi diamo della realtà tecnologica odierna, questa lettura antagonista, in realtà parte proprio dalle nostre vite personali, anzi dalla tragedia personale di chi lavora con la tecnologia, come chi vi parla, anche come il resto, insomma, oggi non c'è Stefano con noi, non è potuto venire, però insomma sicuramente riguarda anche lui. E quello che noi facciamo quotidianamente nel nostro lavoro, diciamo che si iscrive perfettamente nei meccanismi più raffinati dello sfruttamento e del dominio che sono propri del capitalismo e della sorveglianza. E questo anche se siamo obiettori di coscienza, no? Sulle tecnologie chiuse, per esempio, ci rifiutiamo di utilizzare tecnologie chiuse, tecnologie che non promuovono l'autonomia. Ciò nonostante, comunque, tutto gira intorno a questa economia dell'attenzione, che noi lo si voglia o no. Nostro malgrado, quindi, siamo in qualche modo soldati di questa modernità da cui ci sentiamo sempre più asfissiati, anche perché la tecnologia in realtà serve a creare nuovi bisogni piuttosto che valori per la società. Finito con questo spiegone iniziale, facciamo degli esempi. Naturalmente molto importante e interessante è quello, tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale nelle sue sembianze più proprie della Gen AI, l'intelligenza artificiale generativa, che oggi è tanto in voga e che sta cambiando le cose in modo radicale, addirittura anche nei modi in cui ci esprimiamo, sia nello scritto che nel parlato. Una cosa che è recente, vi parlo i risultati di alcune ricerche delle ultime settimane / mesi. Uno degli effetti più curiosi e preoccupanti, a mio avviso, riguarda la distorsione statistica del linguaggio che viene prodotto da queste generative AI. Quindi cosa succede? Che lo scenario è che si pubblicano testi generati da intelligenze artificiali, le parole, le strutture linguistiche più utilizzate non sono quindi frutto di una scelta, consapevole e personale, ma risultano dall'elaborazione artificiale basata su un'enorme mole di dati precedentemente processati, ma in modi non documentati. Noi non sappiamo, no, fino in fondo, di cosa sono frutto questi testi che vengono creati, e poi questi testi finiscono sul web, no? Su quello che è stato creato al CERN, no? come si diceva prima, e mi verrebbe da dire mannaggia loro, anche se loro in realtà il web che avevano creato aveva tutto un altro respiro idealistico, no? Invece oggi è diventato... Qui è diventato il fine, lì era un semplice strumento tecnologico per trasferire velocemente dei dati dell'acceleratore. Esatto. Quindi questi ricercatori hanno già documentato che c'è un impatto chiaro di questo fenomeno, cioè la frequenza d'uso di determinate parole e di determinati modelli linguistici è cambiata. Ci sono alcune parole che si trovano di più scritte online. E naturalmente si potrebbe dire così, che ciò che viene scritto da una Gen AI non solo riflette il linguaggio già esistente, ma lo trasforma in qualche modo, no? E questa è una novità, è qualcosa che prima non è stato immediatamente chiaro. Quindi aumentando o riducendo la presenza di alcune espressioni sulla base di algoritmi, cambia proprio il linguaggio scritto e anche quello parlato, perché poi il parlato, insomma, in qualche modo viene sempre dallo scritto, quindi sembra anche che le persone, leggendo i testi e senza rendersene conto, cominciano ad adottare dei nuovi modi espressivi, nuovi vocaboli, strutture linguistiche nelle loro conversazioni quotidiane. Ecco, tutto questo processo a cosa potrebbe portare? Posto che non lo sappiamo, però qualcosa possiamo dirlo: standardizzazione, nella migliore delle ipotesi, impoverimento, direi, del linguaggio, E in qualche modo è come se stessimo assorbendo inconsciamente il linguaggio della macchina, quindi cosa poi possa succedere nello specifico non lo sappiamo. Possiamo chiederci quali parti della nostra espressione umana rischiano di perdersi. Però scusa se ti interrompo, ma vorrei sottolinearlo questo aspetto della perdita della qualità, o comunque se vengono utilizzate le parole sempre più, solo quelle più frequenti, cioè se l'algoritmo poi sceglie in base alla frequenza, è banale dire che non sceglierà in base alla bellezza o alla poeticità, però se è questo quello che succede, questo di riflesso ci influenza nella nostra elaborazione, veramente c'è da fare molta attenzione. Ma guarda, diciamola così, una banalità, penso. No, invece è importantissimo. Mi viene in mente Wittgenstein, no? Che insomma diceva che i limiti del pensiero sono i limiti del linguaggio, no? Adesso vado a memoria, scusate la citazione dotta. Però effettivamente sembrerebbe una delle cose che sta succedendo con queste tecnologie di GenAI è che sembrerebbe che non è il pensiero che genera il linguaggio, ma è il linguaggio che genera il pensiero. Questo è una cosa no, che fa riflettere. Quindi ci sarebbe anche. Il problema è: ma chi sono i proprietari di queste tecnologie? Quali sono le decisioni che fanno prendere alle macchine con i loro algoritmi? Perché proprio quelle? Perché si decide di non usare più alcune parole o usarne delle altre? In base a cosa? Mi può star bene, no? Fare una scelta del genere se la condivido con tutti e tutte, no? Però se a farla è un padrone di una macchina, allora lì sì mi spavento, no? Perché non voglio neanche essere oscurantista, cioè è tutto molto interessante e da esplorare. Il problema è questo, però è questo specifico, no? E non altri, che sembra banale ma penso che sia un po' il centro, no? Del problema, cioè la proprietà di questi sistemi tecnologici. Parleremo anche quest'anno di guerra, naturalmente, di uso della tecnologia nei conflitti, in particolare nel ruolo della tecnologia nel genocidio palestinese. Parleremo di controllo, e insomma, come si vede ad esempio il caso di Telegram di fine estate, di cui sicuramente abbiamo sentito parlare. Il patron dell'app di chat, Pavel Durov, è stato arrestato a Parigi perché si era finora rifiutato di consegnare i dati degli utenti alle autorità. E questo lo poteva fare perché aveva collocato i suoi data center in un territorio, quello degli Emirati Arabi Uniti, dove l'app Telegram ha sede legale e opera. Quindi in qualche modo Durov aveva operato una scelta di campo geopolitica, diciamo così, no? Questa lo aveva fatto per resistere ai condizionamenti del blocco occidentale sul suo business. Com'è finita? È finita nel modo più scontato immaginabile. Durov si è piegato alle richieste dei governi occidentali, che ora potranno finalmente accedere ai dati degli utenti anche di Telegram su richiesta. Come viene anche riportato nel frattempo modificate condizioni di uso. Quindi questo ci può insegnare qualcosa, no? Come si combatte Silicon Valley? Alleandoti con gli Emirati Arabi Uniti? Ammesso e non concesso che ci si possa riuscire, e mi pare che Pavel Durov non ci sia riuscito, non è questa la via che ci emancipa dal controllo, ma soltanto una sana e consapevole autonomia digitale. So se queste parole direi che sì, volevo aggiungere una cosa, Davide, quando parlavi rispetto a quello che avevamo detto pure prima io e Lorenzo sui problemi del riscaldamento climatico e del problema energetico, quello che tu hai adesso esposto in maniera sommaria a grandi capi, però si evince subito che le problematiche che tu sollevavi sono strettamente connesse anche al riscaldamento, al problema energetico, al riscaldamento globale. Un esempio, appunto, una notizia proprio di questi giorni, che la Microsoft per far andare avanti i propri sistemi e soprattutto addestrare, diciamo, correggimi se sbaglio, ma comunque per sviluppare ancora ulteriormente i loro algoritmi di intelligenza artificiale generativa, siccome questi hanno bisogno di una quantità di energia enorme, hanno deciso di rilevare la vecchia centrale di Three Mile Island, una centrale nucleare famosa a tutti perché negli anni 70 è famosa perché è stato proprio il primo disastro nucleare avvenuto al mondo prima di Chernobyl, in cui ci fu la fusione parziale di un nocciolo, era un sito nucleare con 3 reattori, uno appunto ha avuto questo danno, gli altri 2 però hanno continuato ad andare e adesso ovviamente sono passati anni, sono vecchi, stava in fase di quasi di dismissione, la Microsoft ha deciso di prenderne uno, non so in quali termini come faccia a rimetterlo in esercizio, ma questa è l'intenzione, per produrre e mettersi off grid, cioè quindi non produrre energia elettrica per lo Stato americano, mi pare per la Pennsylvania. Ma semplicemente per fornire energia elettrica alle loro le chiamo diavolerie, insomma hardware informatica, appunto, di quello che dicevo prima. Guarda, sta succedendo anche in Italia, i grandi cloud provider si stanno interessando alle vecchie centrali a carbone o ai vecchi impianti industriali abbandonati, li vogliono prendere, li vogliono adibire e poi vogliono fare produzione sul posto di energia, naturalmente energia da fonti fossili, carbone per esempio, o nucleare, e si parla infatti di SMR, no? I piccoli reattori. Small modular reactor, sono reattori nucleari di piccola taglia, quelli che adesso vanno di moda, anche il ministro ne cita sempre per rilanciare il nucleare italiano. Ma sono le nuove frontiere, la quarta generazione, che non esiste per il momento. Non esistono, certo, però se ne parla tanto come soluzione proprio anche per questo specifico caso dei data center, perché qual è il discorso? L'energia rinnovabile per sua natura non riesce ad essere continua nell'erogazione, mentre invece i data center hanno bisogno di 24/7, no? Quindi costantemente alimentati in maniera impeccabile, non posso. Ma sono energivori proprio, quello la gente che non capisce, che non sa che sono proprio energivori, anche solo mandare un'email. Quando tu mandi un'email, quella è energia che viene. Guarda, a questo punto cito questa ricerca dell'Università della California di Riverside, che proprio recentemente ha segnalato il consumo eccessivo di acqua ed elettricità dei data center, no? Esattamente quello di cui stiamo parlando, e in particolare hanno fatto alcuni conti, che insomma alcuni numeri che danno un po' un'idea. Ogni richiesta su ChatGPT passa attraverso uno dei milioni di server di cui l'azienda OpenAI dispone. A questo server esegue migliaia di calcoli per determinare le parole migliori da usare nella risposta che deve dare, consumando energia, generando calore che poi deve essere smaltito usando altra energia nei sistemi di raffreddamento. Se solo un decimo degli americani usasse ChatGPT per scrivere un'email una volta a settimana per un anno, aiutati dalla ChatGPT, il processo consumerebbe la stessa quantità di energia che ogni singola famiglia di Washington consuma in 20 giorni. E poi naturalmente dovremmo chiederci appunto come viene prodotta questa energia, tra l'altro. Certo, sì, proprio questo. Impressionante. E direi, dopo questi dati che lasciano un po' così, senza fiato, e ci facciamo un'altra breve pausa con Ghetto Cumbè, Tambo dalla Colombia. Tambor. allora di nuovo in voce 06 49 17 50 Onda Rossa. Entropia massima, la presentazione del nuovo anno, e quindi adesso c'è Antropologica, tocca ad Antropologica, che però, come stavamo dicendo prima, per mali di stagione diamo la parola al supplente. E certo, Miriam non c'è, quindi io ovviamente, senza averne alcun titolo, cerco di dire qualcosa. Comunque Antropologica è la trasmissione dedicata all'antropologia, l'avevamo introdotta lo scorso anno per la prima volta, e quindi decidendo proprio di abbandonare l'unicum delle scienze dure e introdurre anche l'antropologia. E così c'è stato il ciclo dello scorso anno. Quest'anno torna ad ottobre, il 28 ottobre, esattamente come lo scorso anno, e con cadenza anche lei mensile a tutte le trasmissioni che abbiamo detto che descriviamo stasera, visto che i lunedì al mese sono quattro, hanno cadenza mensile. La trasmissione c'era lo stesso taglio, lo stesso format, ma quest'anno si occuperà prevalentemente dell'antropologia che si realizza in contesti culturali, sociali e geografici non italiani. In particolare molte trasmissioni saranno mandate, in qualche modo, che scopriremo tecnicamente come fare, dall'estero e dalla Francia. La prima puntata però invece si svolge, pur guardando a contesti non italiani, si svolge da qui, dallo studio, e sarà il 28 ottobre, sarà dedicata al 68 messicano, e come interlocutrice privilegiata ci avremo l'antropologa Tania Campos Thomas, che è un'antropologa di Città del Messico, che ci parlerà del suo libro che si chiama Trilogia del 68, che è proprio concentrato sul 68 messicano, che noi noi di qua dentro non conosciamo per niente, però di cui probabilmente si sente parlare di meno. E quindi questa è la prima puntata d'Antropologica. Le altre probabilmente saranno da fuori sede, da Parigi o da chissà dove, trasmesse con modalità che dovremo stabilire, utilizzando magari ChatGPT. No, scherzo. E questo è tutto quanto. Salutiamo Miriam, che aspettiamo il 28. Ciao Miriam, guarisci. Ciao, guarisci. E quindi niente, va bene, breve, è stata breve Antropologica, quindi passiamo direttamente all'ultimo pezzo, ultimo ma non postremo, che è coglieremo il filologico delle musiche alla fine. La zia Serena Brancale. Muovendo la zia, non c'è marito da chiedere la zia. Sei vestuta poco come la zia Tina, che dice sembra su un mangio. Muovendo la zia, che gli ha lasciato un marito a Scampia, che gli è vissuto per una naia pigia, ma la capa si sembra. La zia, la zia. Ma la bamba è sulla la. Quattro sono un piccinino, tutto insieme sto moscama. Ma viene la zia, cammino in marcia, la zia capo venne da tirano molto, che mai è una principessa. La zia, la zia. Ma la bamba è sulla la. Rieccoci di nuovo, ultima parte, ultima, ultima parte della puntata, ultima parte delle quattro anime di Entropia Massima, e quindi siamo a presentare il nuovo anno di Emergenza Zero. Come l'anno scorso ci siamo soffermati in maniera particolare sul vulcanismo, partendo dal rischio vulcanico, ma partendo da vicino casa. Esatto, sì. E abbastanza vicino casa, dai Campi Flegrei, per poi andare a vedere gli altri vulcani italiani e poi d'Europa e poi del mondo, e ci manca ancora l'ultima per andare fuori dal mondo, fuori dalla Terra, e andare sui vulcani extraterrestri, perché è così che sono, e quindi altri vulcani attivi del sistema solare, e non solo attivi anche. Ma appunto questo sarà il tema della prima puntata dell'anno, ma che sarà a conclusione del ciclo vulcanico. E quindi poi passeremo però come tema principale dell'anno, ci occuperemo invece del rischio idrogeologico. Negli anni passati l'abbiamo sempre interconnessi ovviamente i rischi geologici. In questi anni stiamo cercando di affrontarne invece uno alla volta e approfondirlo in maniera più estesa, insomma, andare più nel particolare e cercare di dare una visione più completa. Quindi sì, abbiamo scelto di occuparci del rischio idrogeologico per sulla base degli ultimi eventi di settembre dell'Emilia Romagna, che si sono, insomma, hanno seguito quelli recentissimi dell'anno scorso, quindi terre colpite a brevissima distanza da eventi veramente eccezionali, ma a partire da questo ne parleremo per quanto riguarda tutta Italia, perché appunto il concetto sempre della trasmissione di Emergenza Zero appunto è quello non di andare a vedere solo le emergenze, ma cercare di capire le cause degli eventi estremi, che in questo caso sì, lo possiamo, diciamo, facilmente ricondurre al cambiamento climatico, nel senso che aumenta la probabilità o comunque il verificarsi di eventi estremi a breve distanza, ma cercare di non agire in emergenza, di non andare solo a vedere appunto gli ultimi eventi successi, ma andare a vedere quello che si può fare, si deve fare, quello che si sarebbe dovuto fare e non si è fatto, e la consapevolezza di tutto ciò, e come da cittadini si può agire, come si è agito anche. Quindi cercare in ogni luogo, in ogni diciamo, sia in situazioni in cui gli eventi sono già capitati, ma anche dove non sono ancora successi, considerando il semplice fatto che l'Italia è un territorio per il 94% sottoposto a rischio idrogeologico, come riporta l'ultimo report dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale, e pubblicato l'ultimo nel 2021, ma siamo in attesa della pubblicazione del triennio, perché il report è triennale, quindi siamo in attesa della pubblicazione del report 2021-2024, che avverrà nei primi mesi dovrebbe essere intorno a gennaio-febbraio del 2025, quindi lo porteremo e lo presenteremo. In realtà sì, il problema è questo qui: negli anni il riscaldamento globale, poi tra l'altro è forte, il riscaldamento globale lo abbiamo citato tutti quanti, quindi ritorna sì, come connessione, perché poi anche in questo caso qui, e soprattutto in questo caso qui, si vede la mano delle scelte governative di quest'ultimo e anche dei precedenti, purtroppo, rispetto alla quantità, all'impatto gigantesco che hanno i territori a rischio sulla vita degli abitanti della maggior parte delle regioni d'Italia. Se ci aggiungi alle zone esposte, quindi a rischio di esondazione, a rischio alluvionale, che sono appunto quelle altissime, il 5%, poi insomma crescono a seconda della presa, più le aree in frana, più anche gli altri rischi, e associ poi a quelle le confronti con la quantità di consumo di suolo, cioè la quantità di suolo che viene sottratto alla sua funzione naturale, diciamo, quindi di suolo libero, non necessariamente agricolo, di suolo libero da costruzione, non impermeabilizzato, esatto. Non impermeabile, e quindi attraverso nel suolo in cui i processi naturali possono avvenire, quindi di filtrazione, anche di attività ecosistemica, cioè di servizi ecosistemici, eccetera eccetera. Una gran parte del consumo di suolo avviene nelle zone ad alta pericolosità, sia idraulica che da frana, soprattutto idraulica, anche perché le zone ad alta pericolosità idraulica sono quelle poste vicine ai fiumi, in pianura, dove lo sviluppo è maggiore, quindi è tutto connesso. Il fenomeno ha proporzioni mostruose. L'anno scorso, 2 anni fa, 2,2 metri quadri al secondo di consumo di suolo. Molta parte di questo avviene in aree a rischio alluvione, a rischio alluvionale alto, medio e basso. In quelle stesse aree vive anche la maggior parte della popolazione. L'ISPRA, sempre nei due rapporti, quello sul consumo di suolo e quello che uscirà nel 2025, incrocia i dati e valle per valle, elemento per elemento, sovrappone le aree consumate alle aree a rischio idraulico, e su quelle pure dove vive la maggior parte della popolazione esposta. Quindi tornare a parlare in questo modo, in modo più esteso rispetto all'inseguimento dell'emergenza, come dicevi tu, è importante, anche perché può creare una nuova consapevolezza. 2 anni fa, in assenza di emergenza zero, con Libera Scienza avevamo provato, subito dopo il primo fenomeno alluvionale in Emilia Romagna, a riconnettere le cose, intervistando un professore dell'Università di Torino, qualche esperto che sentiremo inevitabilmente, ma unendolo poi ai territori che proprio casualmente, proprio quella sera, stavano facendo un'azione a un consiglio comunale, e al nostro amico avvocato Riccardo, che si è occupato tanto di come le persone affrontano i rischi, o soprattutto come affrontano i temi della ricostruzione dopo, post evento. Ci abbiamo collaborato tante volte, abbiamo tentato di tenerlo insieme, rimandando ad un approfondimento, e finalmente è arrivato il momento che durerà l'anno, ma perché il tema richiede approfondimento, per creare poi una consapevolezza che possa poi essere pure una, forse più che col vulcanico, no? Una trasformazione in anche una consapevolezza politica, poi di quello che bisogna mettere in campo quando poi queste scelte vengono svolte. Se è vero che questo governo è avverso una deregulation rispetto all'impatto ambientale, rispetto all'impatto su questi fenomeni qua, vuol dire che i fenomeni e il richiamo all'assicurazione, per l'assicurazione delle case rispetto al rischio, è una mostruosità che questo governo in particolare non è il primo, quindi non è che questa cosa è un po' trasversale, lancia tutto spiano, e che quindi se tu c'hai una casa in zona alluvionale, l'eliminazione del rischio, quindi o dell'esposizione o della vulnerabilità, non importa, perché tanto ti assicuri. Tanto ti assicuri e demandi poi al privato. La cura sia al privato, ma alla banca, a quello che è, ma esatto. Comunque non è tua cura. Non è più una priorità dello Stato. Né dello Stato, né del cittadino, né tantomeno delle aziende o di chi imposta attività anche estese, che sono quelle poi che hanno il maggior impatto, il maggior uso del suolo, impermeabilizzazione. Esatto, cioè basta spostare tutto, appunto. Sposti sul tutto soldo, sul valore, e poi soprattutto sul valore esposto. E quindi tu, in sostanza, abdichi al ruolo che ci avrebbe la comunità di queste. Cioè, lo Stato, tra le tante cose, si fonda pure sulla comunità che in caso di pericolo interviene, quindi sulla protezione della popolazione condivisa, no? È lo stesso principio, se vuoi, della sanità pubblica, in parte, rispetto alla cura del territorio. Mi colpì tanti anni fa sentire, mi pare, Iacona a una trasmissione, dopo una delle numerose alluvioni di Genova, con delle vittime, che diceva proprio la città che ti deve proteggere, in realtà per colpa delle scelte, no? In quel caso lì erano i fiumi tombati, così ti uccide. Quindi proprio dove dovresti, dove tu vai ad abitare, dove tu sei andato storicamente ad abitare, hai costruito un agglomerato urbano per proteggere, per vivere meglio, per vivere insieme, per, quindi per essere protetto dall'esterno, no? Come si sono formate le città, la transizione dal mondo agricolo più povero a quello cittadino dei servizi parecchi decenni fa, adesso magari i fenomeni sono necessariamente cambiati, la città era la protezione dall'esterno, invece quello che ti deve proteggere in realtà ti uccide, era successo lì. E quindi abdicare a questo ruolo di protezione è quello che vuole, che sembra voler continuare a fare pure il ministro Salvini, e non solo lui, insomma. E quindi questo sarà il tema di Emergenza Zero, con una piccola parte che è storica della trasmissione. Abbiamo sempre avuto la chicca finale, o comunque l'acqua come rubrica finale della trasmissione. Anche quest'anno vogliamo mantenere questa l'usanza, e sperando anche di riavere con noi il nostro caro Paolo, ma magari con qualche intervento. Ma in particolare vogliamo portare come tema l'acqua, ma come è stata presentata nel festival Ambiente e Cooperazione a cura di Geologia Senza Frontiere, perché non lo diciamo sempre, non lo pubblicizziamo tanto, non vogliamo, non ci piace, ma Emergenza Zero a cura di Geologia Senza Frontiere. E a settembre, il 26 settembre a Genova, a cura della cellula genovese, è stato creato l'evento Festival Corti Ambiente e Cooperazione edizione zero, con il nome di una nostra socia, Raffaella Sbrenna. E questo festival, appunto, a tema acqua, sono state portate varie esperienze, vari corti e brevi documentari e cortometraggi, e quindi cercheremo di portare queste esperienze che hanno portato ovviamente a questi video durante l'anno, durante le varie puntate dell'anno. E quindi qui ci siamo, rimandiamo alla prima puntata vera e propria di Entropia Massima, che si terrà lunedì prossimo, che è il numero... La prima, lo 21. 21, lunedì 21, lunedì alle 21. Ore 8, Libera Scienza e Libro Stato. Iniziamo io e te, Lorenzo. Poi la settimana successiva, Antropologica. Quella dopo, abbiamo già fatto il calendario. Quella dopo, Emergenza Zero, il 4 novembre, a chiusura del ciclo vulcanico. E noi chiudiamo il giro il 4 novembre con Estrattivismo dei Dati. E quindi... Facciamo i conti. Non è 4 novembre, però ho sbagliato. Vabbè, poi rifacciamo i conti. Comunque, insomma, ci siamo, ecco. No, è il 4, hai ragione, è il 4. Eh sì, e poi va 4, c'è Davide. Ovviamente poi lo rilanceremo. Adesso stiamo riflettendo, effettivamente affrontiamo problemi complessi, mo il calendario, una roba così elementare, lasciamola stare. Poi, il tempo è un'illusione, come diceva Einstein. Esatto. Quindi niente. Comunque siamo nello spazio tempo. La prossima è assicurato. La prossima siamo Libera Scienza e Libro Stato, e il 28 c'è Antropologia. Poi il futuro è una terra straniera. Ricordiamo che la radio non campa d'aria e che si regge su tutte e tutti noi che la ascoltiamo. E quindi un saluto di nuovo a tutti e a tutte, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale. Ciao a tutti e a tutte, a prestissimo, a lunedì.